Giobbe voglia di raccontarci cosa? Quello che vuoi. Ma è, diciamo, sicuramente la presentazione è stata fatta è più esaustiva. E... visto che non abbiamo programmato bene che cosa, sì, di cosa parlare, potrei dire sì, potrei andare avanti sul discorso che ha fatto lui, potrei invece, come sapete, parlare un po' delle implicazioni invece di quello che riguarda il nostro territorio, però non so che cosa preferiamo affrontare come argomento, nel senso che sinceramente mi ho fatto l'idea stasera di parlare più di quello, no? Sì, sì, sì. Però magari due cose su tu come job, il fatto di aver attraversato quell'esperienza, e poi magari un racconto un po' più sul lavoro che stai facendo adesso legato più al nostro territorio. Sì. Beh, se devo, per non farla troppo lunga, sicuramente sottolineare alcuni aspetti che lui ha abbozzato, il discorso del luogo che diceva prima, cioè l'importanza di un territorio liberato, no? In vari modi, in varie forme, secondo il momento, che soprattutto da Benaus in poi, ma negli ultimi vicende, poi particolarmente si è riproposto sempre più spesso, che ha portato a riuscire a vivere, no? All'interno della lotta, dei luoghi dove il movimento, vissuti dal movimento, vissuti vuol dire dove tu eri lì stanziale, forse la Libera Repubblica Maddalena, immagino che tutti più o meno sappiano, no? Però prima dell'inizio del cantiere di Chiomonte, che appunto questo cantiere comunque di un'opera collaterale a quella che sarebbe l'opera principale, proprio per impedire, prevenire la presa in possesso dei terreni, è stato preso questo territorio e tenuto a forza di barricate, di presenza fisica, di turni, di tutta una serie di dispositivi concordati per difendere questo territorio fisicamente dalla presa in possesso, no? Quindi un territorio che per 42-43 giorni è stato qui è stato vietato l'accesso alle forze dell'ordine e in generale alle forze ostili al movimento, e che è stato vissuto costantemente come luogo innanzitutto di vita, cioè il mantenere quel luogo libero e impedendone l'accesso era anche allo stesso tempo il viverlo e strutturare lì, forse come lui accennava prima, una parte di intravedere una vita futura altra, che effettivamente è già nelle nostre possibilità, no? Perché non c'è niente che ce lo impedisca, no? Se si va e lo si fa, no? E ricordo a riguardo quello che fosse stata la visione più lucida riguardo all'esperienza di questa Libera Repubblica, tra l'altro Libera Repubblica ha un richiamo storico non indifferente, no? Il precedente storico, quello delle Libere Repubbliche Partigiane, l'Ossola, Montefiorino e tutte le altre, no? Quindi insomma si caratterizza abbastanza bene che cosa significava quella Libera Repubblica, al di là di che qualcuno poteva anche polemizzare perché Repubblica è una cosa, è un'altra. Invece secondo me era un nome che nei fatti rispecchiava bene quello che era. E dicevo, a riguardo di questa cosa, forse chi ha espresso meglio il punto di vista dello Stato, no? E quindi di quell'apparato che è poi il maggiore promotore di quest'opera, che è stata Marcia Gaglia, cioè la allora presidentessa di Confindustria, che disse che quel problema non è, no, tassica, il problema è questi hanno preso una porzione di territorio dello Stato italiano, l'hanno denominato con una sedicente Libera Repubblica, questo è inaccettabile, cioè che vadano lì le forze dell'ordine e sgomino questa cosa. Quindi lì, no, con la voce forse proprio più pura dal loro punto di vista, che c'entrava qual era il problema. Il problema non ha più tanto l'opera, se farla o non farla, ma il fatto che una serie di persone che loro chiamano cittadini, no? Si erano rimpossessate del diritto, se così dobbiamo dire, ad autodeterminare quale dovesse essere la loro forma di vita, quindi in maniera assemblearia, in maniera orizzontale, liberando un territorio e tenendolo con i propri corpi, con le barricate, con tutto quello che poi sia il 27 giugno che il 3 luglio abbiamo visto che è stato adoperato per cercare di difendere e poi di riprendere quel territorio. E questo secondo me era appunto forse una delle punte più avanzate del movimento, e non lo può in sé come dire, descrivere totalmente, però senz'altro è stata un'esperienza fondante sia per il movimento sia per tutti quelli che a questo momento devono... Sì, Giobbe, un pezzettino, siccome poi oggi pomeriggio cioè se ci racconti anche per dire che cosa vuol dire fare un blocco su un'autostrada, cioè uno spazio, quello che dicevamo oggi pomeriggio, nel fatto che comunque un non luogo per eccellenza diventa poi un luogo di... veramente quella roba lì che ci dicevamo, sì, oggi. Un aneddoto riguardo a questo discorso del luogo come centro vissuto e riabitato di una nuova forma di vita, no? Quando dopo la caduta di Luca Bada dal traliccio nel febbraio dell'anno scorso ci fu quella settimana di blocchi totali della valle, con blocco per più giorni ripetuti dell'autostrada e delle altre vie di comunicazione, ci trovammo proprio sull'autostrada per Bardonecchia più giorni a bloccare questa autostrada, a vivere lo spazio autostradale come fosse ancora questa libera repubblica, no? E quindi lì proprio il non luogo per eccellenza, se vogliamo, che questo luogo di attraversamento con le macchine, no? Quindi luogo, non so se sia capitato a molti di passeggiare su un'autostrada, è un luogo atroce, nel senso che è spazi infiniti, tutti uguali, assolutamente invivibili, e invece lì si sono tramutati in un luogo che per diversi giorni è stato un luogo di vita, ricostruito con una sua... ovviamente dovete immaginare le barricate, più file di barricate da una parte e dall'altra, gli accessi bene o male controllati, dei luoghi dove c'era il fuoco, dove si cucinava, dove si facevano altre attività, tra l'altro poi vabbè, lì il cristallizzato in questo caso il precipitato che hai detto tu prima, in questo caso è anche la conoscenza di sapere entro in autostrada e cosa faccio. Ognuno sapeva già cosa doveva fare, dove prendere il materiale per costruire la barricata, dove smontare il guardrail, come metterlo, dove mettere una tenda per il rifocillamento, e lì si è visto come tutti i pezzi, le varie anime, ognuno avesse una sua parte da fare, no? Da chi ti dava il pezzo di colomba e te lo dava in mano col tovagliolo perché c'erano tu le mani sporche, no? Una cosa che può sembrare assurda, no? Quella situazione lì, a chi condivideva e passava col vassoio di pasticcini o con le trote alla griglia. Ecco, questo senz'altro è qualcosa di difficile forse da pensare, invece c'era. E credo che questo vissuto faccia parte di quella forza che alle volte c'è, è un acquisito del movimento che è sempre presente, nel senso, è una condivisione di quello spazio, di quel luogo, di quelle pratiche, credo che sia una di quelle cose che ti fa fare quel passo in avanti, che fa parte di quel processo di crescita, no? Per cui dopo di quella cosa lì la tua capacità come persona, come movimento sono aumentate, hanno acquisito un percorso comune che la volta dopo ti darà quella qualcosa in più. Non so, questo era per mettere un po' di colore, fare un po' meno astrattismo.